Ovviamente ci sono le elezioni comunali a Bologna che si stanno avvicinando, e a Bologna, come in tutta Italia, la sinistra o il mondo che una volta era la sinistra non è messo esattamente benissimo. E noi pensiamo che però, malgrado la situazione difficile, la partita vada giocata in qualche maniera, anche se siamo pochi, brutti, sporchi, ancora cattivi e forse non del tutto giovanissimi. Però guardandoci in faccia è una scadenza importante. Partiamo da una crisi rispetto a quello che è il livello nazionale, insomma, di questo governo Draghi che ha messo insieme tutti, centro, destra e la cosiddetta sinistra, e che sembra avere anche a Bologna città un grande sostegno. Pensiamo al fatto che per esempio a Bologna il partito principale, il PD, si voglia alleare con i 5 Stelle, con pezzi della cosiddetta sinistra, per fare anche qui una grande alleanza più o meno di centro-sinistra per continuare poi quelle che sono state le politiche fino ad oggi. Noi pensiamo invece che si tratta di mettere in campo qualcos'altro. Una lista unitaria, una candidatura unitaria a sinistra che possa tenere insieme i partiti, le organizzazioni politiche che ci sono e che non bisogna nascondere, insomma, la Rifondazione Comunista, il Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e tutti quelli che per esempio come me non si riconoscono più nelle organizzazioni politiche, oppure che magari non ne hanno mai fatto parte ma sentono ancora il bisogno di un impegno a sinistra, per una sinistra di classe e anche per un ecologismo coerente, qualcosa che sappia andare controcorrente. E quindi da qui la nostra proposta di cominciare ad avviare una discussione. In questo senso abbiamo lanciato un appello, un po' di prime risposte positive, di volontà di incontrarsi, l'abbiamo per adesso riscontrata. Voi nell'appello criticate anche quello che è il modello che è stato in voga negli ultimi anni, se non decenni, del centro-sinistra. Ma sì, certo, un esempio, la questione dei trasporti che è legata alla questione dell'ambiente. Per noi è una questione fondamentale, di classe direi, che riguarda tutti i lavoratori, gli studenti e pensionati. Gli ultimi progetti reali di trasporto pubblico, per esempio a Bologna, li aveva fatti in Beni praticamente 30 anni fa pensando i Filbus. Oggi un'amministrazione a guida PD ci vuole riproporre tale quale in continuità, mi chiedo se andranno in consiglio comunale col People Mover, visto che è l'unica opera che sono riusciti a fare in 20 anni e che non muove un bolognese che è uno e che se piove o fa freddo non riesce neanche a funzionare. In questo senso la discontinuità ci deve essere totalmente, anche sulle politiche ambientali che vanno affrontate come una questione che riguarda tutti, lavoratori, studenti e pensionati, anche qui con un approccio che guardi al fatto che ci sono interessi economici e speculazioni che vanno fermate. Insomma, per dirla come con Chico Mendes, l'ecologismo senza lotte di classe è solo giardinaggio. Però insomma, nell'appello voi sottolineate anche quelli che sono stati i vizi o gli sbagli della sinistra radicale in questi ultimi anni. Sì, c'è stata una sinistra radicale che è stata un po' troppo, come si può dire, accondiscendente al PD, e il PD fa gli interessi dei grandi gruppi industriali, delle grandi cooperative, non quelli di sicuro di tutti noi e dei ceti sociali che vorremmo poter tornare a rappresentare. Questo l'abbiamo visto come sui trasporti, come ho detto prima, così come su altre questioni, per esempio i prati di Caprara, che saranno oggetto probabilmente nei prossimi anni di nuove grandi speculazioni, e noi pensiamo che la discussione non sia su quanti alberi si tagliano e su quanta edilizia pubblica o convenzionata si fa, ma che quello debba rimanere un parco e diventare un parco pubblico per tutti. La mediazione non può essere soltanto a ribasso tra gli interessi di tutti e gli interessi alti di chi specula. Da questo punto di vista, una sinistra subalterna e perennemente alleata al PD non mi sembra che serva molto, insomma. Io non ho ben capito che cosa siano per esempio le operazioni pirate, non vorrei però che dentro le operazioni pirate noi facciamo la parte del mostro, ecco. Diciamo, fuori da questo raggio d'azione, che poi è quello appunto del centro-sinistra, ci sono diverse formazioni che hai citato prima, che da un po' di tempo non hanno più rappresentanza né a livello nazionale ma neanche nel consiglio comunale. Tu dicevi qualche, come dire, segnale di interesse c'è stato. Sì, diciamo che un primo contatto c'è stato un po' con tutti, un po' di interesse un po' con tutti. Diciamo che in questa settimana, nei prossimi giorni, tenteremo di parlare, noi abbiamo fatto questo appello un po' con tutti, Rifondazione Comunista, il PC e PAP, che sono le tre organizzazioni, tre partiti presenti in città e che hanno maggiormente rappresentanza, poi se è disponibile anche il mio ex partito, il PCL. In questo senso qua io penso che bisogna anche qui invertire i discorsi che si facevano una volta, tutti insieme, però cedendo sovranità. Secondo me tutti insieme, però mantenendo anche le proprie identità e riconoscendo anche l'identità altrui. Nessuno deve aspirare ad essere egemone e a dettare la propria linea agli altri. Al limite l'egemonia è nel tentare di convincere quelli che sono più vicini a noi delle proprie analisi e delle proprie ragioni. Su questo io sono abbastanza fiducioso che almeno la discussione si apra come sembra, e il nostro tentativo è quello di arrivare entro 10-15 giorni a un'assemblea pubblica online che possa vedere non soltanto i partiti, le organizzazioni politiche, ma anche i singoli interessati poter intervenire e costruire un processo che io penso debba essere il più aperto e inclusivo possibile, però appunto nel rispetto di tutti e tutte.